Libro sesto, La grande tentazione. 1. Un duetto in paradiso. Questa sala bene arredata, col grande pianoforte aperto e la piacevole vista su un giardino che scende verso una rimessa di barche in riva alla Floss, è quella di Mr. Dean. La graziosa damina in lutto, coi riccioli castagno chiaro cadenti sopra il pizzo colorato a cui le sue dita stanno lavorando, è naturalmente Lucy Dean. E il bel giovanotto, che dalla sua sedia si china a fare stridere le forbici contro il muso straordinariamente piatto del King Charles, accovacciato ai piedi della giovane damina, non è altri che Mr. Stephen Guest. E il suo anello di brillanti, il profumo di rose e l'aria di ozio disinvolto alle 12 del mattino sono il grazioso e olezzante risultato del più grande mulino a olio del più vasto magazzino di St. Ogg's. C'è in quel gioco delle forbici una apparente frivolezza, ma la vostra sagacia riconoscerà subito che suo ha un suo scopo, che lo rende sommamente degno di un giovanotto dalla larga fronte e dalle fattezze slanciate, perché, voi lo vedete, Lucy ha bisogno delle forbici ed è costretta, per quanto riluttante, a scrollare all'indietro i riccioli, alzare i dolci occhi color nocciola, ridere scherzosamente verso un viso che sta quasi all'altezza dei suoi ginocchi e dire, sporgendo la piccola mano di un roseo di conchiglia: «Le forbici, per favore, se potete rinunciare al gran piacere di tormentare il mio povero Minnie». Le sciocche forbici sono scivolate troppo più giù delle nocche, a quanto pare, ed Ercole sporge senza speranza le sue dita intrappolate. Dannate forbici, l'impugnatura s'è infilata per storto, liberatemi voi di grazia. Liberatevi da voi con l'altra mano, disse Miss Lucy maliziosa. Oh, ma è la sinistra, non sono mancino. Lucy ride e le forbici vengono sfilate con gentili sfregamenti dei mignoli, il che naturalmente dispone Mr. Steven ad una ripetizione da capo. Di conseguenza egli attende che le forbici siano deposte per potersene nuovamente impadronire. Oh no, oh no! Disse Lucy, tenendole strette in mano. Non le prenderete più, le avete già sforzate. Ah, non fate più brontolare Minnie adesso. Sedetevi e state composto, e allora vi racconterò delle novità. E cosa mai? Disse Steven, buttandosi all'indietro e appoggiando il braccio destro sul dorso della poltrona. Poteva essere la posa per un ritratto che rappresentasse un giovanotto di 25 anni, piuttosto interessante. Fronte quadrata, capelli bruni, corti e diritti, leggermente ondulati, all'estremità, come un piccolo mannello di grano, sguardo tra ardente e sarcastico, sotto il bel disegno orizzontale dei sopraccigli. Novità molto importanti? Oh, sì, molto. Indovinate. State per cambiare la dieta di Minnie e dargli 3 ratafià al giorno stemperati in un cucchiaio di panna. Oh, niente affatto. Bene, allora il dottor Ken avrà predicato contro la severità dei costumi e voi signore gli avrete mandato tutte una circolare per dirgli: è una difficile dottrina, chi può accettarla? Vergogna, disse Lucy atteggiando la boccuccia a un'aria grave. È abbastanza scemo da parte vostra non indovinare le mie notizie perché riguardano qualcosa di cui vi ho parlato in questi ultimi tempi. Ma mi avete parlato di tante cose in questi ultimi tempi? Se mi dite che la cosa a cui pensate è una delle tante, la vostra tirannia femminile esige forse che io la riconosca subito ad un tale contrassegno? Già, lo so che voi mi trovate sciocca. Vi trovo perfettamente affascinante. E l'essere sciocca fa parte del mio fascino? Non ho detto questo. Ma io so che a voi piace che le donne siano piuttosto insignificanti. Philip Wakem va tradito, me l'ha detto un giorno che non eravate qui. Oh, lo so che Philip su questo punto è feroce, ne fa assolutamente una questione personale. Secondo me, deve spasimare d'amore per qualche dama sconosciuta, qualche sublime Beatrice che avrà incontrato all'estero. A proposito, disse Lucy sospendendo il suo lavoro, mi veniva appunto in mente che non sono mai riuscita a capire se anche Maggie, come suo fratello, abbia qualche difficoltà a vedere Philip. Tom non entrerà mai in una stanza dove sappia che c'è Philip Wakem. Maggie forse farà lo stesso, e allora noi non potremo più cantare le nostre arie, non è vero? Come? Vostra cugina viene a stare con voi? Disse Steven con aria leggermente seccata. Sì, era questa la mia notizia che voi avete dimenticata. Lascerà il suo posto dove è rimasta per circa 2 anni, poverina, da quando le è morto il padre, e resterà con me per un mese o due, per parecchi mesi, spero. E io sarei tenuto a rallegrarmi di questa notizia? Oh no, niente affatto, disse Lucy con un'arietta risentita. A me fa piacere, ma questa non è, si intende, una buona ragione perché faccia piacere anche a voi. Non c'è figliola al mondo a cui io voglia bene quanto a mia cugina Maggie. Ah, sarete inseparabili, suppongo, quando verrà qui. Addio la possibilità di un tête-à-tête con voi, a meno che non riusciate a trovarle un ammiratore che di tanto in tanto faccia coppia con lei. Qual è il motivo della sua antipatia per Philip? Lui poteva essere una risorsa. Ah, una lite di famiglia contro il padre di Philip. Ci sono state circostanze molto incresciose, credo. Io non le ho mai capite bene, né sapute interamente. Mio zio Tulliver ebbe sfortuna, perdette tutti i suoi averi e credo ritenesse che Mr. Wakem ne fosse in certo modo il colpevole. Mr. Wakem acquistò il mulino di Dorlcote, la vecchia proprietà di mio zio dove gli era sempre vissuto. Vi ricordate di mio zio Tulliver, è vero? No, disse Steven con una indifferenza piuttosto arrogante. Sì, il nome l'ho sempre saputo e credo che conoscevo quell'uomo di vista, senza rapporto col suo nome. Metà dei nomi e delle fisionomie dei dintorni sono così disgiunti e senza connessione. Era una testa molto calda. Da bambina, quando andavo a trovare i cugini, ricordo che spesso mi spaventava dicendomi di essere in collera. Papà mi ha raccontato che tra lo zio e Mr. Wakem ci fu un terribile litigio, proprio alla vigilia della morte dello zio, ma la cosa fu messa in tacere. Questo accadde mentre voi eravate a Londra. Papà dice che in molte cose lo zio aveva tutti i torti, gli si era inasprito il carattere, ma naturalmente Tom e Maggie devono provare molta pena a sentirsi rammentare queste cose. Hanno avuto tanti, ma tanti guai. Maggie era in collegio con me 6 anni fa, quando la portarono via per i rovesci di fortuna del padre, e da allora credo abbia avuto ben poche gioie. Morto lo zio, ha occupato un posto molto misero in un collegio, perché è decisa a vivere indipendente e non vuole stare con la zia Pallet. A quel tempo io non potevo farla venire da me, perché la povera mamma stava male e tutto era così triste. Adesso però voglio che venga qui e si prenda delle lunghe, lunghe vacanze. Molto dolce ed angelico da parte vostra, disse Steven, guardandola con un sorriso ammirativo, tanto più se lei ha in conversazione le stesse qualità di sua madre. Oh, povera zia, siete crudeli a canzonarla. Per me è molto preziosa, lo so ben io. Mi tiene la casa magnificamente, molto meglio di quel che potrebbe fare un'estranea, e mi è stata di grande conforto durante la malattia della mamma. Sì, ma dal punto di vista della buona compagnia, si preferirebbe che la fosse rappresentata dalle sue ciliegie nello spirito e dalle sue torte alla crema. Penso con terrore che la figlia sarà sempre presente di persona e non manderà mai dei delegati così piacevoli. Una grassa ragazza bionda dagli occhi tondi e turchini che ci starà a guardare in silenzio. Oh sì, esclamò Lucy ridendo maliziosamente e battendo le mani. Così è proprio mia cugina Maggie, tale quale. Certamente voi l'avete veduta. No, davvero. Non faccio che indovinare quel che può essere la figlia di Mrs. Tulliver. E allora, se deve anche farci scappare Philip, l'unico tenore che abbiamo sotto mano sarà una seccatura di più. Ma io spero che ciò non accadrà. Credo che vi pregherò di andare da Philip a dirgli che Maggie arriverà domani. Egli conosce benissimo i sentimenti di Tom e si tiene sempre lontano da lui. Così comprenderà se gli direte che vi ho incaricato d'avvertirlo che non venga finché io non gli scriva. Credo che fareste meglio a scrivergli un bel biglietto che io gli recapiterò. Phil è così sensibile, lo sapete. La minima cosa può sconcertarlo al punto da non farsi mai più vivo, dopo tutto quel che si è fatto per averlo con noi. A me non riesce mai di indurlo a venire al parco. Credo non abbia simpatia per le mie sorelle. Non c'è che il vostro tocco di fata che possa distendere le sue penne arruffate. Steven si impadronì della piccola mano che stava dirigendosi verso il tavolo e la sfiorò leggermente con le labbra. La piccola Lucy si sentì molto fiera e felice. Lei e Steven erano in quella fase dell'idillio, donde si genera il momento più squisito della giovinezza. La più fresca fioritura della passione, quando ciascuno è sicuro dell'amore dell'altro, ma nessuna dichiarazione formale è ancora stata fatta e tutto è vicendevolmente divinazione, che esalta la parola più insignificante, il gesto più lieve, ad emozioni delicate e deliziose come un errabondo effluvio di gelsomini. L'impegno esplicito distrugge questa finissima punta della sensibilità. È gelsomino, raccolto e offerto in un grande mazzo. Ma è veramente curioso che voi abbiate azzeccato così in pieno l'aspetto e i modi di Maggie, disse l'astuta Lucy andando verso la scrivania, perché essa poteva anche somigliare al fratello, sapete? E Tom non ha gli occhi rotondi ed è ben lontano dallo stare a guardare la gente con aria imbambolata. Oh, immagino che gli somiglia suo padre. Sembra orgoglioso come Lucifero. Tutt'altro che una compagnia brillante, però, crederei. Io voglio bene a Tom. Mi ha dato il mio Mini quando ho perduto Lolo e papà è entusiasta di lui. Dice che ha degli ottimi principi. È stato merito suo se il padre è riuscito a pagare tutti i debiti prima di morire. Oh, ah, sì, ho sentito parlare di questo. Ho inteso vostro padre e il mio che ne parlavano poco tempo fa, dopo pranzo, in una delle loro interminabili discussioni di affari. Pensano di fare qualche cosa per il giovane Tulliver che li ha salvati da una grossa perdita, tornando miracolosamente a sprombattuto, come Turpino, a portare notizia sulla chiusura degli sportelli di una banca o qualcosa del genere. Ma io ero parecchio insonnolito in quel momento. Steven si alzò dalla sedia e se ne andò ciondoloni verso il pianoforte, canticchiando in falsetto graziosa compagna. «Venite a cantare questa», disse quando vide che Lucy stava alzandosi. «Che cosa? Graziosa compagna? Oh, non credo che vada per la vostra voce». «Non importa, va ottimamente per il mio sentimento, che, come sostiene Philip, è l'elemento essenziale per cantar bene. Ho notato che gli uomini senza voce sono tutti di questa opinione». Philip è uscito l'altro giorno in una delle sue invettive contro la creazione, disse Lucy sedendo al pianoforte. Dice che c'è in essa una specie di compiacenza zuccherosa e di imbonimento adulatorio, come se fosse stata scritta per la festa di compleanno di un granduca tedesco. Puah, quello è l'Adamo caduto col carattere inasprito. Noi siamo Adamo ed Eva in paradiso prima della caduta. Su via, il recitativo per la morale. Voi canterete tutti i doveri della donna, e l'obbedienza, il mio orgoglio e la mia felicità. Oh no, io non sono disposta a rispettare un Adamo che allarga i tempi come fate voi, disse Lucy cominciando a suonare il duetto. Certamente, il solo modo di corteggiarsi senza turbamento, di dubbi e di angosce, deve essere quello in cui gli innamorati possono cantare insieme. Il senso di reciproco affiatamento, quale sgorga dalle due note basse che al momento giusto colmano l'attesa tra le note argentine del soprano, dal perfetto accordo delle terze e delle quinte discendenti, dal concertato e amoroso inseguirsi delle voci nella fuga, basta probabilmente a surrogare ogni immediata richiesta di meno appassionate forme d'armonia. Nel nostro caso, il soprano dalla gola d'usignoletto e il basso dalla voce piena cantano con te il diletto ognor si rinovella, con te la vita e ognor benedizione. Tanto più credevano in ciò che cantavano proprio perché lo cantavano. Ora la grande aria di Raffaele, disse Lucy, quando ebbero terminato il duetto. Voi fate alla perfezione i grevi animali. Ah, oh, questo è forse un complimento, disse Steven guardando l'orologio. Per Giove, quasi l'una e mezzo. Bene. Ho giusto il tempo di cantarlo. Steven lanciò con ammirevole disinvoltura le note profonde rappresentanti il passo dei grevi animali, ma quando un cantante ha un uditorio di due esseri, allora può aver luogo una divergenza di opinioni. La padrona di Minnie era incantata, ma Minnie, che fin dall'inizio della musica s'era rintanata tremante nel suo cesto, trovava così poco di suo gusto quelle detonazioni che saltò fuori per rifugiarsi sotto la più remota chiffonniere, quasi fosse per un cagnolino il luogo più adatto per attendere il giudizio universale. Addio, graziosa compagna, disse Steven, abbottonandosi la giubba dopo che ebbe terminato di cantare. E sorridendo dall'alto della sua statura, con l'aria di un innamorato piuttosto protettore, alla piccola dama seduta sullo sgabello del pianoforte. La mia felicità non si rinovella ogni ora perché debbo galoppare a casa. Ho promesso di trovarmici per colazione. Oh, e così non potrete far visita a Philip? Non ha importanza, gli ho detto tutto nel mio biglietto. E domani sarete impegnata con vostra cugina, se non sbaglio. Sì, avremo una piccola riunione di famiglia. Mio cugino Tom pranzerà con noi e per la prima volta la povera zia avrà insieme i suoi due figli. Sarà tanto piacevole. Io ci penso molto. Ma posdomani potrò venire? Oh sì, venite che vi presenterò a mia cugina Maggie. Per quanto sia difficile credere che non l'abbiate mai vista, dato che l'avete descritta così bene. Addio allora. E qui ebbe luogo quella leggera stretta delle mani, quel momentaneo incrociarsi degli occhi, che lasciano spesso sul volto di una piccola dama un rossore lieve e un sorriso, non tanto pronti a disparire appena la porta si sia richiusa. E una tal quale disposizione ad andare avanti e indietro per le camere, piuttosto che a sedersi tranquillamente al proprio ricamo o ad altra ragionevole e istruttiva occupazione. Tale, perlomeno, fu l'effetto su Lucy. E spero che voi non considererete come indizio di una vanità prevalente su altri impulsi più teneri il fatto che la si guardò nello specchio sopra il camino quando i suoi passi la portarono vicino ad esso. Il desiderio di sapere che non si è avuto l'aspetto di un completo spaventapasseri durante parecchie ore di conversazione può ritenersi ancora compreso entro i limiti di un lodevole e benevolo riguardo verso il prossimo. E Lucy aveva una tal dose di questa benevolenza nel suo carattere che io sono incline a credere che anche i suoi piccoli egoismi ne fossero impregnati, così come c'è gente, a voi non del tutto ignota, i cui piccoli atti di benevolenza hanno un prevalente e a volte rancido odore di egoismo. Ella è felice al pensiero del suo innamorato, perché il pensiero di lui si mescola facilmente con tutti i gentili affetti e le azioni bennate di cui ella riempie i suoi giorni tranquilli. Passa continuamente dall'idea di Steven a quella dei preparativi che ella non ha ancora del tutto compiuti nella camera di Maggie. La cugina Maggie deve essere trattata bene, quanto la più grande dama in visita. Meglio, anzi, perché ella dovrà avere in camera le migliori incisioni e disegni di Lucy e sul suo tavolo il più bel mazzo di fiori primaverili. Maggie godrà di tutto questo. Era tanto innamorata delle cose belle. E poi c'è la povera zia Tulliver di cui nessuno mai fa conto. Ella avrà la sorpresa di ricevere in dono un cappello di qualità superlativa e di sentire piacevolmente brindare alla propria salute, tutte cose che Lucy deve complottare quella sera col babbo. Evidentemente non aveva tempo di indugiare in lunghe fantasticherie sulla felicità dei propri amori. Con questo pensiero si incamminò verso la porta. Ma qui si fermò. Che c'è di nuovo adesso, Minnie? Disse, curvandosi a rispondere a certi guaiti di quel piccolo quadrupede ed alzandone il muso brillante contro la propria guancia rosa. Credevi che me ne andassi senza di te? Vieni dunque. Andiamo a vedere Sinbad. Sinbad era il cavallo rosso bruno di Lucy, a cui ella dava sempre da mangiare nelle proprie mani quando esso era nel chiuso. Andava matta di dare lei da mangiare alle bestie sottomesse e conosceva i gusti particolari di tutti gli animali di casa, deliziandosi del piccolo rumore secco che facevano i becchi dei suoi canarini, lavorando il miglio fresco, e del piacere che provano nello sgranocchiare certi animali che, per tema di apparire troppo triviale, chiamerò qui i roditori più domestici. Aveva dunque torto Steven Guest nella sua decisa convinzione che quella sottile fanciulla di 18 anni fosse proprio la specie di moglie che con ogni verosimiglianza un uomo non si pentirebbe di avere sposata. Amorevole e attenta verso le altre donne, non già pronta a dar loro dei baci di Giuda con occhi avidi di scoprirne magagne, anzi realmente partecipe ed intuitiva delle loro pene ed umiliazioni seminascoste e capace di assaporare con gioia i piccoli piaceri preparati per loro. Forse l'accento della sua ammirazione non cadeva precisamente su queste più rare qualità di lei. Forse egli lodava la propria scelta, soprattutto perché la non lo colpiva come una notevole rarità. L'uomo ha piacere che sua moglie sia bella, Ebbene, Lucy era bella, ma non al punto da far impazzire. L'uomo ha piacere che sua moglie sia compita, gentile, affettuosa, non stupida. E Lucy aveva tutte queste qualità. Steven non era sorpreso di sentirsi innamorato di lei ed era persuaso di giudicare ottimamente, preferendola a Miss Leyburn, la figlia del consigliere della contea, quantunque Lucy non fosse figlia che del socio in sottordine di suo padre. Egli aveva dovuto sfidare e vincere una leggera opposizione e disappunto del padre e delle sorelle, circostanza che dà ai giovanotti una gradevole coscienza della propria dignità. Steven era sicuro di avere abbastanza buonsenso e indipendenza per scegliersi la moglie capace di renderlo felice, prescindendo da ogni altra considerazione indiretta, e pensava di scegliere Lucy, che era un piccolo tesoro e corrispondeva esattamente al tipo di donna per cui egli aveva sempre nutrito maggiore ammirazione. 2. Prime impressioni. È molto intelligente, Maggie, disse Lucy. Ella si era inginocchiata su uno sgabello ai piedi di Maggie, dopo aver fatto sedere la bruna fanciulla su una grande poltrona di velluto cremisi. Sento con certezza che ti piacerà. Lo spero. Ah, sarò molto difficile da contentare, disse Maggie sorridendo e sollevando uno dei lunghi riccioli di Lucy in modo che il sole vi brillasse attraverso. Un signore che si crede di valere abbastanza per Lucy deve attendersi delle critiche severe. Veramente vale anche troppo per me, e qualche volta quando è via mi pare quasi impossibile che egli mi ami. Ma quando è con me non posso più dubitarne, però sai, questo mio modo di sentire non vorrei mai che altri lo conoscesse, fuorché tu, Maggie. Allora, se non mi piace, potrai rinunciarvi dal momento che non siete fidanzati, disse Meg con giocosa gravità. Oh no, preferirei di non fidanzarmi. Quando ci si è promessi si comincia a pensare di sposarsi subito, disse Lucy, troppo seriamente preoccupata per accorgersi dello scherzo di Maggie. E io vorrei che per tanto tempo ancora tutto continuasse come adesso. A volte ho veramente paura che Steven mi dica che ha parlato con papà, e da qualche cosa che papà si è lasciato sfuggire l'altro giorno, sono certa che lui e Mr. Guest stanno aspettandoselo. E poi adesso le sorelle di Steven sono molto gentili con me, ma tutta prima non erano contente. Credo che gli si occupasse di me, ed era naturale. Pare assurdo che io debba andare a vivere in un posto come la casa del parco, una piccola persona insignificante come sono io. Ma non si è mai sentito che le proporzioni della gente debbano essere quelle della casa che abitano, come per le chiocciole, disse Maggie ridendo. Le sorelle di Mr. Guest sono per caso delle gigantesse? Oh no, e non belle, voglio dire, non molto, disse Lucy, mezzo pentita di questo commento poco caritatevole. Ma lui sì, perlomeno è generalmente considerato come molto bello. Per quanto tu non ti senta di condividere questa opinione. Oh, non lo so, disse Lucy arrossendo sulla fronte e nel collo. È un cattivo sistema quello di suscitare l'attesa. Forse tu sarai delusa, ma a lui io ho preparato una incantevole sorpresa. Potrò fargli una bella risata in faccia, però non ti voglio dire di che si tratta. Lucy si alzò da ginocchioni e s'allontanò un poco, inclinando da un lato la sua bella testolina, come se avesse messo in posa Maggie per un ritratto e volesse giudicare dell'effetto d'insieme. Alzati un momento, Maggie. Che cosa desideri ora? Disse Maggie, sorridendo languidamente mentre si alzava dalla sedia e abbassava gli occhi sulla sua lieve ed aerea cugina. Dalla figura tutta stilizzata negli impeccabili tessuti di seta e di crespo. Per un momento o due Lucy serbò la sua attitudine contemplativa in silenzio e poi disse: Non so capire che incanto ci sia in te, Maggie, che ti fa parere ancor più bella in vesti meschine. Ma adesso hai veramente bisogno di un abito nuovo. Vedi, però, ieri sera tentavo di immaginarti con un bel vestito elegante, ma per quanto facessi, quella vecchia lanetta logora tornava sempre a parermi la sola cosa che ti stesse bene. Vorrei sapere se Maria Antonietta mostrava tutta la sua maestà quando aveva la veste rattoppata sui gomiti. Certo, se io mi mettessi addosso una povera cosa, nessuno mi farebbe caso, non sarei nient'altro che un cencio. Oh, veramente, disse Maggie con burlesca gravità, correresti il rischio d'essere spazzata via dalla stanza con le ragnatele e la polvere del tappeto e di trovarti sotto la griglia del focolare come Cenerentola. Posso sedermi ora? Oh sì, adesso sì, disse Lucy ridendo. Poi, con un'aria di seria riflessione, togliendosi la grossa spilla di giada, però devi cambiare di spilla, Maggie. Quella piccola farfalla addosso a te ha un'aria buffa. Ma quest'altra non rovinerà l'affascinante effetto d'insieme del mio meschino abbigliamento? Disse Maggie, sedendosi docile, mentre Lucy tornava ad inginocchiarsi e le sganciava quella disprezzabile farfalla. Vorrei che mia madre fosse del tuo parere, perché ieri sera si crucciava che fosse questo il mio vestito migliore. Io ho fatto delle economie per pagarmi qualche lezione. Non migliorerò mai le mie condizioni se non aumento la mia cultura. Maggie ebbe un lieve sospiro. Oh, via, non riprendere quell'aria triste, disse Lucy, puntando la sua grossa spilla sotto il bel collo di Maggie. Tu dimentichi che hai lasciato dietro di te quell'orribile stanza di collegio e che non hai più da rammendare gli abiti delle bambine. Sì, disse Maggie. Succede a me quel che io sempre pensavo fosse il destino del povero, infelice orso bianco che ho visto alla fiera, con l'abitudine di dondolarsi avanti e indietro in quel piccolo spazio. Immaginavo dovesse essere diventato così stupido che, anche lasciato in libertà, avrebbe seguitato a fare la stessa cosa. Si prende la cattiva abitudine di essere infelici. Ma io ti rimetterò ad un regime di gioia che ti farà perdere quella cattiva abitudine, disse Lucy, puntandosi distrattamente sul colletto la farfalla nera, mentre i suoi occhi incontravano affettuosamente quelli di Maggie. Mia piccola cara, disse Maggie in uno dei suoi slanci di tenera ammirazione, tu godi talmente della felicità degli altri che io credo potresti fare a meno della tua. Vorrei essere come te. Oh, io non sono mai stata provata, disse Lucy. Sono sempre stata tanto felice. Non so se potrei sopportare una grande pena, non ne ho mai avute, salvo la morte della povera mamma. Tu sì, hai passato delle prove, Maggie, e io sono sicura che il tuo sentimento per gli altri è vivo quanto il mio. No, Lucy, disse Maggie scuotendo leggermente il capo. Io non so gioire come te della loro felicità, altrimenti sarei più rassegnata. Sento qualcosa per gli altri quando sono afflitti. Non credo che potrei mai fare l'infelicità di nessuno, e tuttavia mi accade spesso di odiarmi, perché talvolta mi stizzisco alla vista della gente felice. Credo che invecchiando divento peggiore, più egoista, e questo veramente mi pare terribile. Via, Maggie, disse Lucy in tono di protesta. Io non credo una parola di tutto ciò. È tutta una triste fantasia, appunto perché sei abbattuta da una vita greve e faticosa. Già, sarà forse così, disse Maggie, scacciando risolutamente le nubi dal volto con un sorriso luminoso e sprofondandosi nella sua sedia. Dipenderà forse dalla dieta del collegio, da quel pudding di riso all'acqua condito di pinnock. Ah! Oh! Speriamo che passerà con le focacce di mia madre con questi incantevoli disegni di Geoffrey. Maggie prese il libro degli schizzi, che era posato davanti a lei sulla tavola. Posso lasciarmi vedere con questa piccola spilla? Disse Lucy andando a guardarne l'effetto nello specchio del camino. Oh no, se ti vede così, Mr. Guest sarà costretto a uscire dalla stanza. Presto, va a metterne un'altra, credi a me. Lucy corse via dalla stanza. Ma Maggie non approfittò dell'occasione per aprire il libro. Se lo lasciò cadere sul grembo, mentre i suoi occhi erravano verso la finestra, donde si scorgeva il brillare del sole sui ricchi cespi di fiori primaverili e sulle lunghe siepi di lauro, e di là da quelle il nastro argenteo della cara vecchia Floss, che a quella distanza pareva addormentata in un riposo mattutino. Il dolce, fresco odore del giardino entrava per la finestra aperta e gli uccelli erano intenti a volare e a posarsi, a cinguettare e a cantare. E tuttavia gli occhi di Maggie cominciarono a riempirsi di lacrime. La vista di quegli antichi luoghi aveva richiamato un fiotto di memorie così penose che anche il giorno avanti delle condizioni d'agio che la mamma aveva ritrovate e della cordialità fraterna di Tom era riuscita appena a gioire. Ma più come ci si rallegra alle buone notizie di amici lontani che come si gode per la presenza di una felicità condivisa. La memoria e l'immaginazione la opprimevano con un senso di troppo pungenti assenze per lasciarle gustare ciò che le veniva offerto dall'effimero presente. Il futuro, pensava, sarebbe stato peggiore del passato, giacché dopo gli anni di rassegnata rinuncia ella era ricaduta nei desideri e nelle brame. Trovava sempre più duri i giorni senza gioia, tra occupazioni disgustose, si sentiva sempre più opprimere dall'immagine di quella vita intensa e varia a cui anelava e di cui disperava. La riscosse il rumore della porta che si apriva. In fretta si asciugò le lacrime e cominciò a sfogliare le pagine del libro. So che c'è un piacere, Maggie, a cui nemmeno la tua più profonda tristezza potrà resistere, disse Lucy, cominciando a parlare non appena entrata nella stanza. È la musica, e io conto di fartene fare delle scandalose scorpacciate. Desidero che tu ti rimetta a suonare, tu che ci riuscivi tanto meglio di me quando eravamo all'Aceham. Avresti riso a sentirmi suonare. Poi suonare i pezzetti delle bambine quando le facevo fare gli esercizi, disse Maggie, solo per il gusto di toccare ancora quei cari tasti. Ma non so se ormai saprei ancora eseguire qualcosa di più difficile che via da me tristi affanno. So in che stato di gioia selvaggia entravi tu quando i cantori facevano il giro a tondo, disse Lucy prendendo il suo ricamo. Quelle vecchie arie che io amavo tanto, potremmo sentirle tutte, se fossi certa che riguardo a certe cose tu non la pensi come Tom. Ah, di nulla credevo tu potessi essere più certa, disse Maggie sorridendo. Avrei dovuto essere più esatta riguardo ad una certa cosa speciale, perché se su quella tu sei del suo avviso, allora ci mancherà la terza voce. St. Oggs è così miserabilmente sprovvista di dilettanti di musica, in fondo non ci sono che Stephen e Philip Wakem a sapere un po' di musica, tanto da poter cantare una parte. Nel pronunciare quest'ultima frase, Lucy aveva alzato gli occhi dal suo lavoro e vide che il volto di Maggie era mutato. Ti dispiace di sentir pronunciare quel nome, Maggie? Oh, in tal caso non te ne parlerò mai più. So che Tom non vuole vederlo finché lo può evitare. In questo non condivido i sentimenti di Tom, disse Maggie alzandosi e andando alla finestra, come se avesse desiderato di vedere meglio il paesaggio. Ho sempre voluto bene a Philip Wakem fin da quando l'ho incontrato all'Orton da bambina. È stato così buono quando Tom si è ferito al piede. Oh, mi fa tanto piacere, disse Lucy. Dunque non sarai malcontenta se qualche volta verrà qui, così riusciremo a fare molto più musica di quel che si potrebbe senza di lui. Oh, io gli voglio tanto bene, povero Philip. Solo desidererei che non fosse così preoccupato della sua deformità. Credo che sia quella che lo rende così triste e talvolta amaro. Certo che fa molta pena di vedere, in mezzo alla gente alta e ben portante, la sua povera, piccola persona gibbosa e quella sua faccia pallida. Ma Lucy, disse Maggie, tentando di arrestare quel torrente di parole. Ah, il campanello della porta, deve essere Steven, continuò Lucy senza accorgersi di un debole sforzo che Maggie faceva per parlare. Una delle cose che più ammiro in Steven è di essere amico di Philip, più di chiunque. Era troppo tardi ormai perché Maggie potesse ancora parlare. La porta del salotto si apriva e già Minnie stava lanciando dei piccoli guaiti all'entrare di un signore alto che si avanzò verso Lucy e le prese la mano con uno sguardo tra garbato e tenero e un'aria interrogativa, la quale pareva indicare che egli non sapeva della presenza d'altri. Permettete che vi presenti Miss Tulliver, mia cugina, disse Lucy volgendosi con gioiosa malizia verso Maggie, che dalla finestra più lontana veniva ora avvicinandosi. Mr. Stephen Guest. Per un momento Stephen non poté nascondere il proprio stupore alla vista dell'alta ninfa dagli occhi scuri, con quella corona di capelli neri come l'ebano. Poi Maggie sentì per la prima volta nella sua vita di stare ricevendo il tributo di un profondo rossore e di una profonda riverenza da parte di una persona per cui ella stessa capiva di provare della timidezza. La nuova esperienza le riuscì veramente gradevole, tanto che quasi dissipò l'emozione dinanzi provata per via di Philip. Quando si sedette, c'era nei suoi occhi una nuova luce. E sulle sue guance un rossore che le stava assai bene. Spero notiate la perfetta somiglianza del vostro ritratto di ieri l'altro, disse Lucy con una bella risata di trionfo. Si rallegrava della confusione del suo innamorato. Di solito la superiorità era sempre dalla parte di lui. Oh, vostra cugina mi aveva ingannato nel descrivervi, Miss Tulliver, disse Steven sedendosi accanto a Lucy e curvandosi per giocare con Minnie. Mentre verso Maggie lanciava soltanto delle occhiate furtive. Ma aveva detto che voi avevate i capelli chiari e gli occhi turchini? Già, eravate voi a dir così, protestò Lucy. Io mi sono soltanto guardata bene dal distruggere la fiducia che avete nel vostro potere di divinazione. Oh, vorrei sempre sbagliarmi a questo modo, disse Steven, e trovare la realtà così più bella che le mie supposizioni. Ora vi siete mostrato all'altezza della situazione, disse Maggie. E avete detto quel che era d'obbligo in una simile circostanza. Gli lanciò uno sguardo di leggera sfida. Capiva benissimo che nel raffigurarsela in anticipo egli aveva fatto un ritratto canzonatorio. Che Steven fosse portato alla canzonatura, Lucy gliel'aveva detto, e Maggie aveva mentalmente soggiunto, e anche alquanto pieno di sé. A una dose allarmante di malignità, fu il primo pensiero di Steven. E il secondo, allorché Maggie si fu curvata sul suo lavoro, vorrei che tornasse a guardarmi. E l'ultimo fu di rispondere: capita sempre almeno una volta che ogni frase di complimento abbia la sua verità. Quando uno dice vi ringrazio, può anche essere grato realmente. E gli riuscirà abbastanza seccante in quel caso di dover usare le stesse parole con cui chiunque rifiuta un invito spiacevole. Non siete di questo parere, Miss Tulliver? No, disse Maggie, volgendo verso di lui il suo sguardo diritto. Se adoperiamo parole ordinarie in una grande occasione, esse risultano tanto più sorprendenti, in quanto ci accorgiamo per la prima volta che se hanno un significato particolare, come le vecchie bandiere o gli abiti di tutti i giorni esposti in un luogo sacro. Oh, allora il mio complimento doveva essere eloquente, disse Steven. Che, mentre Maggie lo guardava, non riusciva in realtà a capir bene ciò che diceva, dato che le parole erano così al di sotto della circostanza. Nessun complimento può essere eloquente se non come espressione di indifferenza, disse Maggie un poco arrossendo. Lucy era piuttosto in apprensione. Pensava che Steven e Maggie non si sarebbero graditi a vicenda. Aveva sempre temuto che Maggie apparisse troppo strana e intelligente per piacere a quel sofistico signore. Com'è, cara Maggie? Ella intervenne. Hai sempre preteso che andavi pazza di essere ammirata e ora mi pare che vai in collera se qualcuno fa tanto di ammirarti? Oh, niente affatto, disse Maggie. Amo anche troppo di sentirmi ammirata, ma i complimenti non mi danno mai questa sensazione. Non vi farò mai più un complimento, Miss Tulliver, disse Steven. Grazie, sarà una prova di rispetto. Povera Maggie. Era così disavvezza alla compagnia che non poteva prendere nulla alla leggera, né in vita sua aveva mai parlato con le labbra soltanto, sicché, necessariamente, appariva assurda alle signore più navigate per quell'eccesso di sensibilità che era capace di mettere anche negli incidenti più banali. Ma in quel caso ebbe coscienza anche lei d'essere un po' ridicola. Vero è che, contro i complimenti, aveva una prevenzione teorica. Anzi, una volta aveva detto con impazienza a Philip che non riusciva a capire perché mai alle donne si debba dichiarare con un sorriso sciocco che son belle, più che non si dichiari ai vecchi signori che sono rispettabili. Tuttavia, il sentirsi così irritata per un banale luogo comune detto da un estraneo come Mr. Stephen Guest e l'essersela presa perché gli aveva parlato di lei con leggerezza prima d'averla veduta, erano certamente manifestazioni irragionevoli, tanto che appena finito di parlare, ella cominciò a vergognarsi di se stessa. Non le venne neppure in mente che la sua scontrosaggine fosse conseguenza della piacevolissima emozione che l'aveva preceduta, così come un'innocente goccia d'acqua fredda cadendoci addosso quando ci godiamo un senso di gradevole calore, ci affligge come un'improvvisa puntura. Steven era troppo educato per non far mostra di ignorare che la precedente conversazione poteva essere riuscita imbarazzante, e subito si mise a discorrere sulle generali, domandando a Lucy se sapeva quando avrebbe finalmente avuto luogo il banco di beneficenza, sicché si potesse poi sperare di vederla spargere l'influenza dei suoi occhi su oggetti più capaci di gratitudine che non quei fiori di lana che le sbocciavano dalle dita. Un giorno del mese prossimo, credo, disse Lucy, ma le vostre sorelle stanno lavorando più di me? Avranno il banco più grande? Ah sì, però preparano i lavori nel loro salottino, dove io non vado a disturbarle. Vedo che voi non vi lasciate prendere dalla mania di moda per i lavori di fantasia, Miss Stalliver? Disse Steven, guardando il semplice cucito di Maggie. No, disse Maggie, la cosa più difficile ed elegante che io sappia fare è la biancheria. Ma quel tuo cucito è così bello, Maggie, disse Lucy, che credo te ne chiederò qualche campione come lavoro di fantasia. Che tu cucia così deliziosamente è proprio un mistero per me. Un tempo avevi tanta antipatia per questo genere di lavori. Oh, il mistero è presto spiegato, cara, disse Maggie, alzando gli occhi tranquillamente. Il cucito era l'unica cosa con cui potessi guadagnarmi del denaro. Così sono stata costretta a sforzarmi di farlo bene. Buona e semplice com'era, Lucy non poté difendersi dall'arrossire un poco. Non aveva molto piacere che Steven sapesse queste cose. Che bisogno aveva Maggie di parlarne? Forse c'era una punta di orgoglio in quella confessione, l'orgoglio della povertà che non vuol vergognarsi di se stessa, ma se Maggie fosse stata la regina delle civette, difficilmente avrebbe potuto escogitare un mezzo migliore per rendere più piccante agli occhi di Steven la propria bellezza. Non sono ben certa che la tranquilla confessione di quei lavori di cucito e di quella povertà sarebbe da sola bastata a far molto, ma, accompagnata dalla bellezza, fece di Maggie una donna diversa da tutte le altre, ancor più di quanto ella fosse apparsa tutta prima. Ma potrai fare dei lavori di maglia, Lucy, continuò Maggie, se ti servono per il tuo banco di beneficenza. Oh sì, mi servirebbero moltissimo. Domani ti farò lavorare con della lana rossa. Ma vostra sorella è veramente invidiabile, seguitò Lucy volgendosi verso Steven, per quel suo talento di modellare. Sta eseguendo tutto a memoria, un meraviglioso busto del dottor Ken. Certo, se si ricorderà di fare gli occhi molto vicini l'uno all'altro e gli angoli della bocca molto discosti, la somiglianza non potrà a meno di far colpo a St. Oaks. Oh, via, questo è molto maligno da parte vostra, disse Lucy con aria offesa. Non avrei creduto di sentirvi parlare con poco rispetto del dottor Ken. Ho detto qualcosa di men che riguardoso verso il dottor Ken? Dio me ne guardi. Ma non sono obbligato a rispettare un suo busto caricaturale. Credo che Ken sia uno dei migliori individui del mondo. Non do molta importanza al grande candelabro che gli ha posto sul tavolo della comunione, né avrei gusto di rovinarmi la salute per fare ogni giorno preghiere troppo mattutine. Ma tra tutta la gente che ho conosciuto di persona, egli è il solo che mi paia avere qualcosa del vero apostolo. Un uomo che con 800 sterline all'anno si contenta di mobili d'abete e di bue lessato per dar via i 2/3 del reddito. Gran bella azione da parte sua, l'essersi preso in casa quel disgraziato ragazzo Grattan che ha ammazzato la madre per accidente. E per salvare il poveretto dall'impazzire sacrifica più tempo di quanto ne avrebbe un uomo anche meno occupato di lui. A quel che vedo, conduce sempre il ragazzo con sé. È meraviglioso, disse Maggie, che aveva lasciato cadere il suo lavoro e stava ascoltando con vivo interesse. Non ho mai conosciuto nessuno che facesse delle cose simili. E questo modo di agire fa tanto più meraviglia in Ken, disse Steven, che in generale ha un contegno freddo e severo. Niente smancerie in lui, niente frasi ipersensibili. Oh! Lo credo un uomo perfetto, disse Lucy con bell'entusiasmo. No, qui non possiamo andare d'accordo, disse Steven scuotendo il capo con ironica gravità. Via, che difetto potete trovargli? È un anglicano? Bene, è la giusta via, credo, disse gravemente Lucy. Questo decide la questione in astratto, disse Steven, ma non dal punto di vista parlamentare. Egli ha messo i dissidenti contro la gente di chiesa. e un aspirante senatore par mio, dei cui servigi il paese molto abbisogna, troverà questa situazione tutt'altro che comoda allorché reclamerà l'onore di rappresentare St. Ogg's al Parlamento.